Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Non c'è nulla che vorrei cambiare oggi. È tutto meno complicato. So cosa voglio. La mia pelle è ancora sensibile ed è bello. Sto bene nel mio corpo, perciò mi sento ancora sexy. Il sesso continua a piacermi, forse più di prima. Farlo mi ricarica e dopo ho le gambe molli. Sì, sono anche incontinente, ma non mi faccio condizionare. Questo è uno spot che sto guardando e riguardando da qualche giorno. Diciamo che viene trasmesso alla televisione italiana da domenica, da lunedì anzi, quindi sono 3 giorni. È lo spot di una azienda che produce prodotti per l'incontinenza femminile. Lo spot rappresenta delle signore âgées, chiaramente, in déshabillé, alcune nude di spalle, altre in reggiseno mutande, che mostrano in maniera anche molto esplicita la loro affezione al contatto carnale. Se qualcuno volesse vederlo, in questo momento lo sto mandando in onda sulla versione video di questa trasmissione, visto che ho possibilità di mandarlo, quindi lo potete vedere. Sono delle signore che si guardano allo specchio, in mutande, si spogliano, le signore che definiremmo nostre nonne, nostre mamme, però si spogliano, si mettono allegre in mutande reggiseno, una balla davanti allo specchio, lentamente fanno capire che il loro corpo non se lo sono dimenticato. Una si accarezza le spalle, l'altra si passa le mani sul collo, non mascherano per nulla la loro età. Quella che dice di avere le gambe molli per fatto sesso è stesa sul letto, appagata, come se avesse appena fatto l'amore. Ripeto, sono donne che nella nostra stereotipata idea della appetibilità sessuale sarebbero già fuori tempo, fuori età. È giusto questo? È giusto che noi continuiamo a pensare questo? Perché questo spot in qualche modo ci fa pensare, ci fa riflettere. Inutile fingere che noi siamo del tutto immuni a questo tipo di messaggio. Vi faccio ascoltare la seconda parte. Sono le mie gocce della risata. Le chiamo gocce dello starnuto. È troppo? Beh, non riguarda voi. Riguarda me. E questo è il punto clou poi di questo spot. In realtà anche la ragione commerciale dell'azienda che l'ha prodotto è che queste donne dicono tranquillamente di avere dell'incontinenza urinaria e quindi associano il loro problema, che è un problema che coglie molti esseri umani, la gran parte degli esseri umani dopo una certa età, e loro non vogliono vederlo disgiunto, staccato, la loro capacità, possibilità, potenzialità, diritto, desiderio, privilegio di poter ancora compiere atti sessuali. Questa è una nuova campagna lanciata da questo gruppo, una campagna che ha chiamato in campo un regista importante, Yorgos Lanthimos, che è il regista del film che ha vinto l'Oscar, La Favorita. Ci ha lavorato un'agenzia londinese molto importante. Insomma, non si sono lesinati nulla, hanno impiegato anche delle modelle che vanno famose per il fatto che alla loro età ancora sfilano, ancora mostrano i loro corpi, i loro capelli bianchi senza nessun tipo di problema. Sono caduti molti stereotipi. Obiettivamente noi siamo abituati a considerare il realistico decadimento del corpo o trasformazione del corpo, chiamiamola così, dell'età, come qualcosa che vada nascosto, esorcizzato. Considerate che la maggior parte delle bellissime donne che rappresentano il culmine del sogno erotico, del desiderio per l'italiano medio, per cui guarda la televisione generalista, sono coetanee o anche maggiori di età delle modelle che hanno fatto questo spot che ci ha sconcertato. Ma faccio due esempi per tutti e non mi sento di violare nessun segreto femminile, visto che queste età sono tranquillamente visibili sui profili su Wikipedia di queste signore che non c'erò. Mara Venier e Barbara D'Urso, le due donne che si fronteggiano e si conquistano il cuore dell'italiano seduto in prima fila. La Venier ha 70 anni, la D'Urso ha 63 anni, eppure sono donne che rientrano nella sfera, si mostrano come donne desiderabili, soprattutto la D'Urso, ancora una ragazzina, mostra le gambe, balla, saltella, ironizza, è sicuramente un modello erotico. Manca Alba Parietti a 59 anni, Valeria Marini a 53 anni, Pamela Prati a 61 anni, Lili Gruber a 63 anni, Antonella Clerici a 56 anni, è più giovane di tutte. Eppure questo spot dice di mostrare donne over 50 come se fosse qualcosa di totalmente tabuizzato, pensare che donne oltre 50 possano avere un corpo e un desiderio sessuale, al di là di un loro problema fisiologico. Posso paragonarla con analoghe pubblicità che riguardano il mondo maschile, la famosa pubblicità del medicamento per la prostata, cioè il signore s'alza con tante scuse, più volte durante la notte vado a portare fuori il cane, ho sentito rumore, e in realtà non vuole confessare alla moglie che si fa la pipì spesso perché ha problemi di prostata. Il giorno dopo, dopo la moglie gli ha dato il prostamol, lui tutto tranquillo e contento le porta la colazione a letto. Non c'è nessun accenno al fatto fra le due persone intercorra una complicità di tipo sessuale. Lui è un pigiamino che non farebbe arrapare nemmeno un'ergastolana dopo 30 anni di isolamento. Eppure c'è la tenerezza rappresentata. C'è un'altra pubblicità di un signore che pubblicizza sempre delle mutandine per maschi incontinenti, ma sembra una figata quasi, capito? Sono uomini che fanno tutte le attività tipiche dei maschi, e lui c'è anche questo, se le mette, senza però mostrare in realtà l'uomo con la panzetta, le pieghette, il ciondolone moscio che dice nonostante me la faccia addosso c'ho ancora voglia. Ecco, cosa è cambiato e cosa deve cambiare? Cambia qualcosa nella percezione generale dell'attenzione sessuale, del corpo? Se la pubblicità, in nome di un fenomeno molto conosciuto e molto esteso che sta andando avanti almeno da una decina d'anni negli Stati Uniti, che tende appunto a sdoganare le persone che hanno dei corpi fuori standard, e quindi viene positivamente mostrata la possibilità che ogni corpo ha la sua dignità di esistere. Ma secondo me questa pubblicità va oltre il body positive, che è questo movimento di pensiero, perché va molto oltre. A un certo punto ridà, restituisce o affibbia o obbliga le donne di una certa età, e penso che le donne rappresentate lì hanno molto più di 60 anni, a dover in qualche maniera rappresentare una loro sessualità. D'altra parte dà possibilità e liceità a tutte quelle che si sentono in qualche maniera limitate, osteggiate, ostracizzate, per loro non corrispondere a alcuni standard, non tutte possono essere come Barbara D'Urso, che ha dei fari stroboscopici che le tolgono 50 anni, a uno staff di persone che curano la sua eterna apparente giovinezza, beh, possono nonostante questo aver diritto ad ambire di avere una carezza o un atto d'amore. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Questa mattina ti convoco in un argomento per me molto impervio, vediamo se tu mi aiuti a districarlo. Ricordo che Bruno Ballardino è un esperto di comunicazione, noi ultimamente l'abbiamo conosciuto per libri come Leader come Papa Francesco, Isis, il marketing dell'Apocalisse, ma in realtà lui nasce, anche se poi ha ripudiato la categoria facendo libri contro pubblicitari, come pubblicitario. Quindi chiedo subito a Bruno cosa sta accadendo nel mondo della pubblicità, si invecchia il target finale per dover fare pubblicità come queste? Allora, intanto questo è un adattamento di una campagna internazionale, Quello che già all'estero è ormai acquisito, cioè il grey market, il mercato dei capelli grigi, è una cosa abbastanza pacifica, normale, sta arrivando adesso in Italia con grande ritardo. Infatti perché, diciamo perché... che le modelle si vede benissimo che sono modelle di stampo anglosassone, c'è anche una signora nera, si capisce che non sono modelle prese da, diciamo, dai casting italiani, quello si vede benissimo. Esatto, no, il problema è che il nostro è un paese un po' retrogrado dal punto di vista culturale, dell'educazione sessuale, sentimentale, emotiva, psicologica, grazie anche al cattolicesimo, questo è assodato, per cui noi siamo un po' repressi da un default, da una ideologia che ci ha mantenuto un po' indietro rispetto a quello che è il niveau della sociologico generale. Vabbè, se il nostro simbolo è donna perfetta, una mamma che deve essere vergine, possiamo capirlo anche questo. Ecco, non è che dobbiamo prendere a modello, cioè, però esistono delle cose che non sono giuste, cioè ad esempio non accettare il proprio corpo, che è un vecchio portato cattolico. Adesso io non voglio fare una filippica contro il cattolicesimo, perché poi per fortuna esistono anche dei cattolici illuminati, ma il discorso è questo: noi abbiamo una base di repressione sessuale, psicologica diversa dagli altri. Arrivato adesso questo spot ha suscitato diverse reazioni, quando poi in realtà utilizza il sesso soltanto come pretesto per dire io mi accetto come sono alla mia età. È molto importante. La frase chiave è non mi faccio condizionare, e poi la seconda frase chiave è una cosa che riguarda me, non voi. Paradosso, perché sta mettendo in piazza con uno spot, come mi faceva notare una carissima amica avvocatessa attentissima a queste cose, lo mette in piazza invece in uno spot. Ecco, e qui il discorso centrale è: ma perché deve essere la pubblicità a educare? Perché io da vecchio pubblicitario mi ribello all'idea che la pubblicità venga usata per l'educazione del popolo. Cioè il ruolo pedagogico è un equivoco, perché poi è a pagamento, nel senso che poi alla fine ti sto facendo comprare qualcosa. Loro devono soltanto, diciamo, aprire un mercato che non è abbastanza probabilmente in questo momento attivo nel nostro paese. Ci mandano uno spot che chiaramente è fatto, pensato, immaginato con codici non elaborati, non metabolizzati alle nostre parti. E infatti si vede, tu dici, suscita un mormorio sommesso, però ancora non ho visto onestamente, Bruno, infatti chiedo al nostro pubblico di intervenire chiamando l'800240024 per capire che impressione fa loro questo improvviso, immediato sdoganamento, non tanto della bellezza della terza età, perché eravamo abituati a vedere un'infinità di persone anziane felici, contente, ballare, andare sull'altalena, ma non avevamo mai visto persone, che donne soprattutto, che apertamente stese sul letto in mutande ci dicono che bello, io dopo aver fatto sesso mi sento le gambe molli. È qualcosa che obiettivamente probabilmente è talmente forte che ancora nessuno ha avuto modo di elaborare un'opinione, un po' per paura di sembrare politicamente scorretti, quindi retrogradi, quindi non se ne parla, aspettiamo che ne parlano gli altri per vedere cosa dice il mondo, magari dovessi passare per retrogrado. Io devo dire, l'ho visto, ma abituato a tutta una serie di pubblicità con i pannolini, con il maestro azzurro, con le persone incontinenti che vanno sull'altalena, saltano col paracadute o ballano nel centro anziani, non avevo mai visto una così esplicita dichiarazione del lecito desiderio di donne over 50, dicono, ma in maniera bonaria sono secondo me over 60 almeno, di avere attività sessuale. Sei d'accordo che da noi è totalmente esorcizzato? Io ho fatto un elenco delle grandi dame della nostra televisione, sono tutte signore che vanno fra i 60 e i 70 anni, ma sono ancora considerate appetibili oggetti di attenzione erotica. Assolutamente, questa comunque è una rottura notevole rispetto ai parametri già rotti da precedenti spot su, ad esempio, sulle forme più rotonde, la ciccia, che era un altro tabù. Cioè stiamo andando avanti verso una liberazione che un tempo noi della nostra generazione dicevamo la liberazione sessuale, no? La liberazione del corpo, l'accettazione di tutte le età, eccetera. Noi non l'abbiamo realizzata in realtà, perché poi siamo in Italia, ma fondamentalmente ancora una volta è la pubblicità a farsi punta di diamante di un tentativo di di culturalizzare, di diffondere una diversa cultura del corpo. Tu immagini, ti ricordi, nemmeno un mese fa la cantante Arisa, famosissima, si è fatta una foto, un primo piano del suo ventre, il suo inguine, dicendo: guarda, sono questa, mi sono stufata di nascondere, basta trucchi, artifici, sono la pancia, cioè una pezzetta, sto bene, sono cicciotta, mi piace essere così. Le prime a attaccarlo sono state le donne, come se fotografate al pubis, perché sotto le mutande si intravedeva una bozzetta, e naturalmente è logico che ci sia, perché sennò altrimenti avrebbe da preoccuparsi, capito? Anche questo mette in crisi, si preferisce il modello D'Urso, 63 anni, ma che sembra una ragazzina di 25 anni, piuttosto che pensare che alla fine di questo dovremmo in qualche maniera accontentarci se il mondo va avanti. Sì, saremo sempre più anziani e saremo sempre più gli anziani. Mi piacerebbe vedere dal basso questa rivolta, non come dire ispirata, spinta, suggerita dai media o peggio dalla pubblicità. Mi piacerebbe che fosse la gente a liberarsi di tutto, liberarsi dei tabù e liberarsi anche del sistema della moda, ma questo è tutto un altro discorso. È chiaro che un popolo represso, un popolo che non capisce che cos'è la propria liberazione, liberazione è diverso da libertà, liberazione. È una parola che noi ci siamo dimenticati. Ecco, allora mi piacerebbe che non fosse la pubblicità a farlo, questo è. Sì, mi piacerebbe anche capire come mai noi accettiamo come se fosse normale che la maggior parte, diciamo delle signore, oggi parliamo delle signore, perché poi il modello è femminile in questo momento, non facciamo sbaglio e fare sempre un grande calderone. Note da televisione, anche giornaliste, sentono il bisogno di questa luce reale. Sembra che nello studio sia improvvisamente, ne so, un'apparizione mariana. Tutti gli ospiti hanno un tono di luce, ma la conduttrice è in una sorta di aureola mistica, capito? Che chiaramente è quello che livella ogni ruga, toglie ogni imperfezione, crea quella sorta di plastificazione luminosa della faccia. Se se ne sente ancora il bisogno, chi non avrebbe assolutamente nessuna necessità di dover imporre un'immagine se si presenta per il lavoro che sa fare, per la tradizione degli anni in cui ha fatto questo lavoro, è un po' difficile, a parte la spettatrice, rinunciare al filtro quando si fa il selfie, rinunciare al punto luce giusto o cercare di essere orgogliosa della propria pelle non perfettamente liscia e tirata. Ci fermiamo soltanto per la borsa, poi riprendiamo. 800 24 00 24. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Melog. Non c'è nulla che vorrei cambiare oggi. È tutto meno complicato. So cosa voglio. La mia pelle è ancora sensibile. Ed è bello. Sto bene nel mio corpo. Perciò mi sento ancora sexy. Il sesso continua a piacermi. Forse più di prima. Farlo mi ricarica. E dopo ho le gambe molli. Sì, sono anche incontinente, ma non mi faccio condizionare. Ringrazio Gianmarco Ferronato, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti che mi stanno assistendo. Oggi stiamo parlando di un tema difficile, di un nuovo spot in onda da qualche giorno. Ancora fanno tutti finta di non averlo visto. Non vedo grandi opinionisti che prendono posizione, però secondo me merita approfondimento. E sono molto grato alle ascoltatrici di Melog che stanno numerose chiamando e pronte a intervenire per dire la loro. Patrizia da Roma, buongiorno. Sì, ciao Gianluca, buongiorno. Allora, senti, io lo spot l'ho visto già qualche giorno fa, mi ha colpito perché diciamo si vede benissimo che non è uno spot italiano, è anglosassone, anche l'utilizzo di quella ragazza, di quella signora di colore, certo, gli dà proprio una connotazione precisa, e questa cosa mi piace perché qua non si vedono mai le donne come se non esistessero, e già quello mi piace. A me quello che mi ha colpito di questo post è quello che sottintende, quello che non si vede, cioè che queste donne, a mio parere, diciamo, non vivano una relazione stabile, cioè abbiano una vita diversa dalle donne che siamo abituati a immaginarci. Cioè non c'è un farlocco di marito umarella accanto con l'aria soddisfatta, ecco, se la vivono per conto loro giustamente e se la vivono con chi gli piace, questo è il sottotesto. È quello che mi ha colpito, non sono, sono donne libere, ma libere in tutti i sensi, libere dagli stereotipi, da certi tabù, insomma, questa cosa mi ha colpito molto. E a proposito volevo anche, non so se lo conosci, probabilmente sì, un film di Sebastian Lelio che si intitola Gloria, che io consiglio a tutti di vedere, bellissimo, su una donna, penso sessantenne, con figli già grandi, separata, che cerca una vita come queste donne della pubblicità. Non so, guarda, io ho 63 anni, quindi sfondi porte aperte, è che non ho mai visto in maniera così esplicita, se non nella glorificazione di babbioni della mia età che hanno vicino fantastiche dive dello schermo, della televisione, dei social, dei reality e via dicendo, ma le donne oltre i 60 anni, ecco, le vedo sotto le luci illuminanti alla Barbara D'Urso, non ho mai viste nella crudezza del loro corpo appagato da un atto d'amore, giustamente come dici te, non è certo quello benedetto dalla pace coniugale, se no altrimenti gli tremerebbero poco le gambe a una donna di 60 anni che ancora va col marito. Daniela da Modena, adesso mi lapideranno. Daniela, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ho detto una bestemmia, mi rendo conto, però lo so, le cose vengono fuori da sole. Prego Daniela. Sono molto d'accordo con l'ascoltatrice che mi ha preceduta. Porto una mia personale considerazione. Io ho 60 anni già compiuti, sono stata, e parlo in prima persona e sarò molto breve, sono stata una bellissima ragazza, sono stata una bella signora e dicono che stia portando splendidamente i miei anni. Però io quando ho sentito questa pubblicità, questa reclame, sono rimasta fortemente turbata per l'atteggiamento eccessivamente sensuale che comunque non corrisponde, ma nella stragrande maggioranza dei casi, alla normalità delle donne di questa fascia di età. Ecco, tu dovresti dire donne di quella fascia d'età non dovrebbe avere questo prepotente desiderio di sesso, e perché no? Mica detto sia per tutti, qualcuno potrebbe avercelo, no? No, certo, ma no, non dovrebbero. So che non ce l'hanno, in genere non ce l'hanno. Io ho tanta ammirazione per chi continua a portare avanti continua a sostenere questa pulsione che ritengo naturale. Io ho defezionato. Io mi sono sottratta, sì. Mi sono stancata di sedurre, perché l'ho fatto per tanti anni. Hai appeso il perizoma al chiodo, dai. Assolutamente, assolutamente. Queste signore però vogliono dire che anche se loro hanno la mutandina per l'incontinenza, non la appendono al chiodo, chi se le prende anche con le goccioline della risata e dello starnuto. È lecito da parte loro impugnare questa cosa, per questo è una novità. Hai ragione Daniela. Siamo abituati a sentirci dire che le donne dopo una certa età basta queste cose, mio marito ancora mi cerca, che noia, questa è la tipica frase che si sente nelle nostre province. Ecco, queste signore ci portano un vento diverso. Barbara d'Alessandria. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, circa gli interventi precedenti sono parzialmente d'accordo, nel senso, la prima signora diceva che poteva essere solo una questione relativa alle donne che avevano relazioni all'esterno del matrimonio, per cui dovevano compiacere. No, ha detto, queste signore sembrano rappresentare dei modelli, donne estremamente libere, è vero. L'impressione siano donne che gestiscono autonomamente la loro vita sessuale, non c'è ombra o traccia di legittimo consorte al loro fianco o nei loro pressi, sembra donne libere, tranquille, che dicono a me ancora mi va di farlo. Questo di nuovo rafforza questa cosa che la sessualità ci può essere solo all'esterno della coppia di fatto, perché se sei lì con tuo marito da tanto tanto tempo in realtà questa cosa non c'è più. Bene. Gira questa voce, non so se sia attendibile, gira questa voce, sì. Fatto che 59 anni, sposata da più di 30, ci può essere ancora una piacevole e cercata sessualità a livello della coppia, è chiaro che la bisogna coltivare. È chiaro che non puoi più fare cose alla vatte la pesca, ti strappo le mutande, ma diventa una sessualità, anzi ancora più matura, ancora più piacevole, ancora più ricercata, proprio perché sì, non è più quella. Io penso che ognuno se la possa giocare come più gli attizza, capito? Queste mostrano il lato meno facente parte di una narrazione comune, che è quello che dice: noi siamo liberi, siamo ancora disponibili. Bruno Ballardini, scusa, ti ho lasciato un po' fuori perché volevo far parlare le signore. Un tuo primo commento, anche se su quelli che sono i pareri delle donne, su uno spot fatto per donne, noi uomini non dovremmo dire nulla, osserviamo soltanto. No, è vero, certo, sono d'accordo, ma poi sono pareri che ho già sentito da amiche e in generale. Quello che io volevo osservare è un altro fatto, cioè il sesso effettivamente qui è solo un pretesto, cioè viene utilizzato per dare un motore. Sì, loro devono vendere l'assorbente, diciamo la verità, la mutanda, esatto. Continente. Sì, tecnicamente stiamo parlando di incontinenza, cioè quella data dall'età. Il sesso è un fatto relazionale e quindi qui scatta invece quel meccanismo maligno, malefico della pubblicità, che si basa sul social embarrassment, cioè l'imbarazzo sociale. Cioè, oddio, che succede se io ho relazioni e poi ogni tanto mi scappa la pipì? Allora, questa cosa qui è la perfidia della pubblicità. Ma c'è un fatto ancora più negativo per me, dal mio punto di vista, perché l'ho sentito anche da donne, cioè qui si fanno vedere delle donne di classe medio-medio-alta. Belle case, bei mobili, belli arredamenti. Ecco, non è la realtà questa. Non sono poveracce, hanno un sacco di tempo a loro disposizione, non hanno problemi e probabilmente possono dedicarsi ancora anche alla relazione, al sesso, eccetera. Ma chi lavora, o peggio, è in disoccupazione, probabilmente non fa parte di questo pubblico, perché loro si rivolgono crudelmente ai responsabili d'acquisto, a chi potenzialmente può acquistare il prodotto, e quindi spaccano la società in due, gli altri rimangono fuori, col naso schiacciato sul vetro, a aspirare a uno status sociale che gli permette proprio quelle cose lì. Altrimenti, cioè, per gli altri c'è il pannolone, zitti e non rompere le scatole, ecco. Ma forse nemmeno pannolone, nel senso, cerca di addosso e non rompere le palle, esatto. Questo è il senso. Esatto. Fermiamoci un attimo, ma devo dare la linea alle informazioni del traffico e poi ci sentiamo. Melog 800240024, mi scrivono nel gruppo Melog ha parlato, si vede che la pubblicità ha colto il suo segno, fa parlare di sé visto che Gianluca ne parla. Ne parlo perché, come giustamente ci ha detto Bruno Ballardini, ci troviamo di fronte a un fenomeno singolare che avviene alle nostre latitudini. Arriva uno spot chiaramente anglosassone, chiaramente pensato, girato, immaginato e prodotto per un altro tipo di mentalità, e cade come una sassata nello stagno delle nostre pudibonde reticenze, e non ne parliamo perché difficilmente le signore che chiamano si riconoscono in quelle donne lì, o perlomeno ci si riconoscono, non fanno parte, come ha detto saggiamente la nostra ascoltatrice, come ha ribadito Bruno Ballardini, della media nazionale delle signore over 60 che hanno anche problemi di incontinenza, che non hanno belle case ben arredate, bella biancheria, belle lenzuola, non hanno tempo per guardarsi allo specchio e dire: mi sento le gambe molle, perché la persona con cui si sono accoppiate probabilmente già ha preso la porta di casa e se n'è andata, non è un marito che staziona poi in pantofole girando per casa. Paola, provincia di Grosseto. Ciao Paola. Nicoletti, ecco. Ehi, ci sono? Sì, oggi avete risposto il sì. Pubblico che normalmente trovo impegnato nel fare il soffritto, finalmente oggi ho lasciato la padella. Va bene. È stata colta nell'intimo, sono contento. Dunque, mi ha colpito molto quello che ha detto quel signore, Bruno che ha parlato Ballardini, per ultimo. Un profondo conoscitore della comunicazione. Perché è vero quello che dice lui, che lo spot sembra proprio indirizzato a persone danarose che possono spendere i soldi nel tenersi belle, affascinanti, e conquistare uomini, e non è proprio fatto su misura sulla popolazione italiana, sulle donne media italiana, che non ha tutte queste facilitazioni e magari veramente forse non ha nemmeno i soldi per comprarsi i tena. Poi su Altena che è una mutanda, mi sembra, non è un panno, è una mutanda speciale, una cosa del genere, mi sembra. Ci sono no? anche della specie di assorbentoni, però c'è anche la mutanda. Ma quelli sì. sono quelli che vendono i mesti presidi all'incontinenza, quelli che danno le ASL, che sono dei pannoloni che non si cammina. Questa è una discretissima civettola mutanda che non fa vedere nulla, possiamo aver capito. Beh, giusto ci sia però. Nunzia da Verona. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ascolto, sì. Ok, e appunto oltre al fatto che è un po' l'assurdo dell'Italia che ci vogliano o i comici, la satira o la pubblicità per insegnare delle cose, per portare insomma a conoscenza delle cose, ma che questo venga sdoganato il fatto che appunto a una certa età se ci si arriva o l'incontinenza o le perdite o la prostata che sia una cosa, cioè che è la normale vita, però questo spot insomma oltre a sdoganare la pancetta, le gambe molli eccetera, mi dà anche, a me ha dato l'impressione di donne che si masturbano. E può essere, sole. Può essere. Sì, può anche essere, appunto. E allora, sì, sì. Perché, o per condizione. Questa è una lettura interessante, però in realtà si vedono sole e non si vedono i partner. Tu dici in realtà il sottotesto dovrebbe essere quando sei sola a una certa età di farlo da sola, ecco, questo è il senso. Ho ganato anche fatto perché insomma è una cosa normale, cioè nel senso si fa fatica ma non è molto allegro, vero, perché sarebbe meglio in due, però sdoganare questo fatto che la sessualità continua. Tu ci hai visto anche questa venatura dire che comunque sia, purché sia una sessualità, può essere una sessualità diciamo autogestita, una cosa del genere. Potrebbe anche essere, perché sono tutte molto sognanti, si guardano allo specchio, si accarezzano. In realtà l'oggetto di questo indebolimento delle gambe sembra una poesia della Somma Saffo, in realtà potrebbe essere esattamente quello che dici te. Paola da Milano, vediamo se confermi o smentisci l'impressione della tua collega. Dottor Nicoletti, buongiorno anzitutto. Sì. Io ho 84 anni e sono, ascolto la vostra trasmissione naturalmente, sono molto perplessa, cioè molto, sono un po' perplessa, perché forse per la mia data di nascita mi riporto a tempi un po' lontani, però non so fino a che punto stiamo esagerando nel buon gusto, perché sono cose naturali, tutte possibili, per carità, anche se io fortunatamente sono tra le poche e fortunate che non ho ancora nessun tipo di problema in questo campo. Però insomma discutere di una, scusi, del pannolone riportandolo alla sessualità, che è poi quello che dovrebbe essere anche accompagnato dal sentimento, ecco, questo mi lascia perplessa, non riesco a coniugare o a dividere ma è comprensibile, le due, Paola, gli argomenti. La sua perplessità è comprensibile, io appartengo a una generazione appena più giovane della sua, anche io sono rimasto un po' perplesso, ma non perché mi scandalizzi o dica buon gusto non lo tiro in ballo, semplicemente perché mi rendo conto che sta avvenendo una nuova evoluzione in generale nel nostro costume, nella nostra percezione. Vede, il buon gusto è sempre legato al sentire generale di un'epoca, quello che oggi non sembra di buon gusto non lo sembrerà più magari fra 10 anni o fra 5 anni. In questo caso il pretesto è quello di invocare un passo avanti nello sdoganamento di una libera sessualità per persone non proprio giovanissime, ma il fine, come ci ha detto giustamente Ballardini, è quello di vendere poi il presidio sanitario. Cioè loro devono vendere il presidio sanitario, alla fine gliene importa fino a un certo punto cosa possa pensare la gente. L'importante è che se ne parli, l'importante è che chi va a comprare quell'attrezzo contenitore pensi che fa un passo avanti verso il proprio affrancamento anche di libertà di espressione sessuale. Vedi Bruno, però il dibattito si è acceso, quindi hanno toccato un punto che in realtà meritava di essere toccato. Se apre dibattito in maniera così spontanea, così veloce, così intensa, ormai conosco le frequenze e i tassi di frequentazione del mio pubblico, vuol dire che hanno toccato un punto che era ora di parlarne. Sì, assolutamente sì. No, mi ha fatto un po' sorridere il commento del radioascoltatore che vedeva in quei gesti una forma quasi di massaggio erotico, eccetera. No, in realtà erano gesti di accettazione del proprio corpo. Vorrei vederlo anche sulle rughe, vorrei vederlo su altri dettagli della vecchiaia. Sì, ci sono macchie, tumefazioni, c'è cioè tutti i problemi che ha la pelle. Tutto il male della vecchiaia, certo. E il discorso è comunque la chiave in tutto questo, più giusta di lettura è la liberazione dovrebbe esserci, ma non dovrebbe partire dalla pubblicità. Io auspico da sempre una liberazione sessuale, fa parte anche, come dicevo, della nostra generazione, che ha fatto il movimento hippie, chi ormai dai capelli non si riconosce più che abbiamo fatto il movimento hippie, però il discorso è non può partire dall'esterno, non può partire dalla persuasione, deve partire dal basso, a livello però di... Quando abbiamo uno spunto, un pretesto per poter parlare qualcosa che potrebbe liberarci, lo pigliamo al volo, e quindi ti ringrazio di essermi stato complice in questo. Alla prossima! Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.